Un'offerta industrialmente solida, al contrario delle possibili cordate che poi farebbero gravare il debito sull'azienda. Il presidente di Alitalia Prato difende così la trattativa con Air France KLM, lo fa incontrando i rappresentanti dei lavoratori della compagnia aerea. Due le richieste di questi ultimi, intanto che il termine del 31 marzo per chiudere l'operazione chiesto da Air France slitti e che si dia immediata attivazione al prestito ponte di 300 milioni da parte del Tesoro. Di prestito ponte parla anche Berlusconi, che permetta, spiega, di far partire la cordata degli imprenditori italiani. Il governo, ne ho parlato stamattina con Prodi al telefono, deve prestarsi a un prestito ponte che dovrebbe consentire a questa cordata di mettere insieme un piano industriale e di fare una due diligence. Un progetto tutto italiano con dentro anche i miei figli, dice Berlusconi, che ipotizza il ticket Air One Intesa San Paolo. Il governo fermi tutto e riapra la trattativa, aggiunge Maroni, Lega. La nostra preoccupazione principale, come è noto, è sulla fine che farà Malpensa. Da Palazzo Chigi tuttavia Prodi replica la possibilità di un prestito ponte vincolata al fatto che un'offerta ulteriore sia davvero concreta. Di tempi stretti parla anche Padoa-Schioppa, così il ministro Bersani al Sole 24 Ore. Queste cordate improvvisate di notte mi sanno di cose così. Ecco, rimango abbastanza allibito. Su Alitalia il centrodestra si contraddice, commenta Veltroni. Al momento è inimmaginabile fare una qualsiasi offerta su Alitalia, dice infine Passera di Banca Intesa. Vincenzo Miglietta, GR24, il Sole 24 Ore, Roma.